Sura dell'assistenza, capitolo 107 del Sublime Corano. Le ayat 1, 2 e 3 sono state rivelate alla Mecca e le altre 4 sono state rivelate a Medina. È scesa dopo la Sura 102, At-Takathur. Nel nome di Allah, il sommamente misericordioso e clementissimo, dimmi, che te ne pare di colui il quale afferma che il giorno del giudizio è un'invenzione? Quello è proprio colui che respinge l'orfano e non esorta a sfamare il povero. Guai a quelli che eseguono il rito di adorazione, i quali nei loro riti di adorazione sono disattenti, li eseguono per farsi vedere e si oppongono all'assistenza.